consapevole, ce l'aveva fredda. L'ho sentito modulare in settimana, ma adesso lo sento con la voce gracchiante. Perché gli ha preso il mal di gola, forte, è più di una settimana così, prima ritornava e poi gli si è abbassata, adesso invece di ce l'ha sempre bassa, ce l'ha. Bianco, mi sono arrivato a fare uno scarico, tu riprendete la voce. Chiappa, adesso pure io vado a fare una cosettina per il toto. Vabbè, buon scarico, io me l'ho messo in moto, almeno sento qualcuno. Ragazzi, ci ascoltiamo più tardi se coincide. Chiappa, no, un attimino, rimango subito alla radio, poi con lo scarico. Sveglia! Thank you.